Dagli incontri nascono sempre nuovi stimoli, nuove idee. Ma quando ad incontrarsi sono dei musicisti, ecco che nasce qualcosa di profondamente diverso. Qualcosa che rimane e aggiunge una nuova nota sul pentagramma. L'esperienza dei magnifici e di destini incrociati in un nuovo programma, nel quale, attraverso i loro incontri, i grandi della musica danno vita a sorprendenti connessioni per creare nuovi mondi musicali. Radio 24 presenta I Magnifici Destini, un programma di Giacomo Zito. Le va una tazza di tè prima di andarsene? No. Caffè? No. Succo di arancia? Forse no. Qualcosa di freddo. Coca? Acqua? Una disgustosa bevanda zuccherina che dicono fatta con i frutti della foresta? No. Vuole qualcosa da mangiare? Qualcosa da mordicchiare? Albicocche dentro il miele. Perché le fanno nessuno lo sa, visto che smettono di sapere di albicocca e prendono il sapore del miele. E se uno vuole il miele va a comprarsi il miele invece delle albicocche al miele. Ma comunque, eccole qui. Sono sue, se vuole. No. Dice sempre di no a tutto. No. È meglio che vada. Grazie per il suo aiuto. Lei è la benvenuta. Vorrei aggiungere... è divina. Colgo la mia sola occasione per dirlo. Dopo aver letto quell'orribile libro, certo non tornerà mai più al negozio. Grazie. Sì, beh... si immagini. Allora... è stato bello conoscerla. Surreale, ma... ma bello. Mi scusi. Surreale, ma bello. Ma come mi è venuto? Riconoscete questo dialogo che più che altro sembra un monologo? A pronunciarlo sono Hugh Grant e Julia Roberts, protagonisti della commedia romantica Notting Hill, dove lui interpreta un timido libraio e lei una star del cinema hollywoodiano piombata dal cielo in uno dei quartieri più caratteristici di Londra. Una storia d'amore esemplare che ha fatto battere i cuori di milioni e milioni di spettatori, anche grazie a una colonna sonora romantica e strappalacrime al punto giusto. She may be the face I can't forget. A trace of pleasure or regret, maybe my treasure or the price I have to pay. She may be the song the summer sings, maybe the chill the autumn brings, maybe 100 different things within the measure of a day. Ovunque lei vada, io devo seguirla, perché lei è il senso della mia vita. Quanti innamorati, dai più appassionati ai più impacciati, si saranno stretti l'un l'altra al suono di queste parole. D'altronde, a scriverle è stato uno dei più celebri chansonnier d'Oltralpe, il grande Charles Aznavour. Non è lui a cantarle in questa occasione, però. Il pezzo che sentite è quello che in gergo musicale viene definito cover, un brano scritto da qualcuno e interpretato da qualcun altro. Volete un esempio? Proviamo con uno tra i più celebri. Lo sapevate che Girls Just Want to Have Fun di Cyndi Lauper è una cover di un pezzo scritto e cantato da un tale pressoché sconosciuto di nome Robert Hazard? Beh, questo dovrebbe darvi la misura di quanto una cover possa letteralmente far vivere una seconda vita a una canzone. Ed è proprio quello che è successo con She, scritta nel 1974 da Charles Aznavour, cantata dal celebre cantautore in francese, italiano e tedesco. All'epoca vendette centinaia di migliaia di copie e nel 1999 visse una seconda vita grazie a un magnifico cantautore britannico. Lui si chiama Elvis Costello ed è quantomeno curioso che la sua figura per molti si associ a un film romantico. Diciamo che il romanticismo e le smancerie non sono proprio le primissime idee che dovrebbero venire in mente quando si parla di Elvis Costello. Il fatto è che non sono mai stato un giovane incazzato. Sono sempre stato un vecchio incazzato. Mi sono sempre sentito più vecchio e sono sempre sembrato più vecchio, quindi lo ero. Ci sono cose che riescono ancora a farmi molto incazzare. Ho paura che in questo caso le mie reazioni non seguano esattamente la logica, né la calma o l'intelligenza. È un fottuto meccanismo che può portare alcuni alla violenza. Il fatto è che sono tutto d'un pezzo e quindi non arrivo mai a provare odio e non permetto al vetriolo di sgorgare fuori. Al massimo esprimo tutto il mio disgusto. Molti pensano di conoscermi, ma non è affatto così. Molti pensano di conoscerlo. Molti forse pensano addirittura che quella canzone d'amore così celebre, quella canzone che ha fatto da colonna sonora agli sguardi languidi di Julia Roberts e Hugh Grant, basti a definire Elvis Costello come musicista. Ma si sbagliano. Si sbagliano di grosso. Certo, non è facile definire uno come lui, un autore che sembra aver fatto della metamorfosi la sua unica vera costante in oltre 35 anni di carriera. Uno che per prima cosa, quando ha iniziato seriamente a fare musica, ha deciso di cambiarsi i connotati e, non potendo agire sul proprio aspetto, ha optato per una rivoluzione anagrafica. È così che Declan Patrick McManus si è trasformato in Elvis Costello. La passione per la musica in casa McManus ha radici davvero molto antiche. Non basta dire che Declan è figlio di Ronald Ross McManus, trombettiere provetto, e di Lillian McManus, proprietaria di un negozio di dischi. Occorre andare indietro con le generazioni se si vuole comprendere l'origine lontana del talento. Questione di genetica, dopo tutto. Il nonno di Declan, che di nome faceva Patrick, dopo aver combattuto nella Grande Guerra, era finito a suonare il jazz sulle navi da crociera. Aveva imparato la musica da ragazzino, in orfanotrofio, insieme ai suoi fratelli. Naturale che il nipote abbia la musica nel sangue. Naturale che possieda lo swing, inteso come quella caratteristica peculiare che devia dalla norma e rende le cose speciali, che si tratti di note musicali oppure di persone. Mia madre dice che il primo disco che ho davvero apprezzato è stato Songs for Swinging Lovers. A quanto pare, quando neanche sapevo parlare, mi piaceva quel disco. Non so... Il suo suono deve avermi conquistato. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. Difficile resistere al potere dello swing di Frank Sinatra. È questo il tipo di musica che appassiona l'adolescente Declan, altro che psichedelia. E pensare che sul finire degli anni 60, quando Declan è adolescente, i gruppi di rock psichedelico vanno per la maggiore. Su tutti trionfano i Jefferson Airplane. Declan invece si ispira a Sinatra, ai primi Beatles, a Buddy Holly. E proprio come l'asso del rock and roll americano, indossa giacche anni 50, taglia i capelli corti in un'epoca dove spopolano i capelloni, porta occhiali da vista con montature spesse e se ne va in giro preferibilmente con una Fender Jazzmaster a tracolla. Scrive già canzoni, Declan. Inizia che non ha nemmeno 15 anni e fa sul serio, da subito. Combatto una battaglia con me stesso per fuggire dalla mediocrità e fare sempre meglio. Tutte le persone creative sono così. Ma la differenza tra me e la maggior parte degli altri cantautori è che io non mi accontento di una frase loffia quando se ne può cercare una migliore. In quanti possono onestamente dire lo stesso del proprio lavoro? Certo, a casa McManus Declan respira aria di musica, ma vuoi mettere la differenza con un appartamento di giovani musicisti della sua età eternamente persi tra un disco dei Byrds e uno di Bob Dylan? È in loro compagnia, dei dischi e dei colleghi, che Declan si trasferisce a vivere nel 1974. Mettono su casa e mettono su anche una band. Dopo alcune scelte infelici in fatto di nomi, escludendo l'ipotesi di chiamarsi Motherfuckers o Binario Brothers, alla fine optano per il più sobrio Flip City, ispirandosi a una nota a margine scritta su un album di Joni Mitchell. Per qualche tempo ottengono un discreto successo in giro per i locali di Londra, ma la band non dura molto. Declan nel frattempo ha trovato l'amore, si sposa e fa anche un figlio. 20 anni e una famiglia da mantenere, due cose che poco si conciliano con la vita da musicista squattrinato alla costante ricerca di un contratto discografico. Non resta che rimboccarsi le maniche. Declan cambia una serie di lavori prima di approdare alla ditta di cosmetici Elizabeth Arden in qualità di programmatore informatico. Io schiacciavo i bottoni e basta. Avrebbero potuto mettere uno scimpanzé al posto mio. passavo un sacco di tempo a comporre canzoni. Praticamente era come se venissi pagato per premere quei pulsanti e scrivere le mie canzoni. Ma poi, quando mi hanno veramente messo davanti al lavoro di programmatore, mi sono accorto che era un macello. Declan schiaccia bottoni, compone canzoni, si esibisce come solista. Da qualche tempo, quando sale sul palco, si fa chiamare D.P. Costello. È il cognome della sua bisnonna, Elizabeth, gli sembra di buon auspicio. Quando non è occupato a svolgere il suo lavoro alienante, Declan passa il tempo spedendo demotape dei suoi pezzi a qualunque casa discografica, per lo più senza ottenere risposta. Ma la fortuna sta per girare in suo favore. Il destino sta preparando sul suo sentiero un inaspettato, magnifico incontro. L'Inghilterra sa essere impietosa in autunno. Lo stereotipo del clima britannico, sempre grigio e nebbioso, difficilmente trova motivi di sollievo nelle fredde giornate novembrine. Eppure Declan è in una gelida giornata qualunque, una di quelle in cui alle 4 del pomeriggio è già buio da un pezzo, trova il suo raggio di sole. Sta sfogliando una rivista musicale. Gli cade l'occhio su un annuncio. La Stiff Records, nuova etichetta discografica indipendente, sta cercando demotape di pezzi inediti. Declan non si fa certo pregare. Manda subito i suoi lavori e questi finiscono all'attenzione di un certo Nick Lowe, anche lui musicista e soprattutto produttore. Lowe impazzisce per quel sound così vistosamente innamorato del rock and roll classico, ma al contempo rabbioso, dirompente. Nick Lowe intuisce che in questo giovane arrabbiato c'è un sacco di potenziale. Insieme registrano un disco in fretta e furia nel giro di 24 ore nei London's Pathway Studios. Lowe produce, Costello canta i pezzi che ha scritto nel corso degli anni di gavetta. Ha deciso oltretutto di abbandonare la sigla DP, che stava per Declan Patrick, in favore di un altisonante Elvis, tributo al re del rock and roll. È così che nasce finalmente Elvis Costello. Io ero incazzato, ma proprio incazzato nero. Infatti il mio primo album originariamente si intitolava «Le mie intenzioni non sono cazzi tuoi, brutto coglione». «My aim is true», titolo originale dell'album d'esordio di Elvis Costello, tradotto significa proprio «Le mie intenzioni sono serie». E le intenzioni serie di un ragazzo arrabbiato sono ancora più bellicose. Costello è fermissimo nella convinzione di conquistare il mondo della musica, costi quel che costi. Questa specie di nuovo Buddy Holly è decisamente una creatura ibrida, ma sa il fatto suo e saprà fare della versatilità il suo punto di forza. My Aim is True mescola la rabbia del terremoto punk con la levità di certe ballate, rivelando il miscuglio di influenze ed attitudini dell'autore. Il disco ottiene buone recensioni, piazzandosi in alto nelle classifiche inglesi anche grazie al traino di singoli di sicura presa sul pubblico. Nell'ottobre del 1977, l'irrequieto Elvis lascia la Stiff Records e forma una nuova etichetta, la Radar Records. Il fido compare e produttore Nick Lowe lo segue. Lo farà senza battere ciglio per i primi 5 dischi della sua carriera. Costello si mette al lavoro per un nuovo album e progetta intanto un tour a stelle e strisce. Ebbene sì, l'eco del suo successo è arrivata fino agli Stati Uniti d'America. Non è certo la prima volta che un artista britannico conquista le platee d'oltreoceano con la sua eccentricità tipicamente british. Solo che forse nel caso di Elvis Costello, il lato eccentrico e l'indole da disturbatore della quiete prendono un po' troppo il sopravvento. La mia vocazione definitiva nella vita è essere irritante. Non qualcuno di realmente distruttivo, no. Solo una persona che dà fastidio, che disorienta. Qualcuno che spezzi il lento processo quotidiano della vita e riesca a farlo in modo tanto convincente da lasciare che qualche vittima pensi che forse esiste qualcosa di più della semplice monotonia dell'esistenza. 17 dicembre 1977. Elvis Costello è nervoso mentre si aggira negli studi del network americano NBC. Zitto zitto sta già architettando una sorpresa per i vertici del canale. Non avrebbe dovuto trovarsi lì quella sera, non avrebbe dovuto essere lui accompagnato dalla sua band, gli Attractions, a esibirsi sul palcoscenico del Saturday Night Live. SNL, come lo chiamano gli americani, è un popolare show comico inaugurato giusto un paio d'anni prima e che vanta la presenza di un cast di tutto rispetto. John Belushi, Dan Aykroyd, Chevy Chase, tanto per citarne alcuni. Quella sera di dicembre avrebbero dovuto esibirsi i Sex Pistols. Ma si sa, le intemperanze del punk spesso hanno poco a che fare con le scadenze e gli appuntamenti da rispettare. A Costello and the Attractions tocca colmare il buco lasciato da Johnny Rotten e soci. E sapete che c'è? Lo faranno con un piglio altrettanto punk. Calling Mr. Ozzel with the swastika tattoo, there's a vacancy waiting. I'm sorry, ladies and gentlemen, there's no reason to do this song here. Perdonatemi, signore e signori, ma non c'è motivo per cui io vi canti questa canzone. Switch broker's a toll. The same things that I can hardly believe. They really think we're getting out of control. Radio is cleaning up the nation. They say you better listen to the voice of reason, but they don't give you any choice 'cause they think that it's treason. Se la NBC ha imposto a Costello di non suonare un pezzo dal titolo Radio Radio, brano infuriato contro gli Stati Uniti, lui se ne frega altamente. Interrompe la band all'inizio dell'esibizione e le fa suonare, guarda un po', proprio la canzone incriminata. È vero che grazie a questo scherzo Costello viene bandito dal Saturday Night Live per oltre 10 anni, ma ottiene in compenso una grossa e graditissima fetta di pubblicità. Risultato? Miami is True entra nella top 40 americana e spiana la rotta commerciale ai suoi lavori successivi. Negli anni a seguire Costello allarga sempre più il suo range di influenze musicali, esplorando generi e approcci continuamente differenti. La sua sete di scoperta sembra davvero insaziabile. Ho iniziato a perdere interesse nei confronti delle aree musicali in cui mi sono mosso finora, ma ogni cosa che ho fatto, nel bene o nel male, l'ho fatta con tutto il mio cuore. E mi riconosco in ogni mio album, anche in quelli che oggi mi sembrano meno riusciti. Beh, io magari ho fatto degli album brutti, ma non ho mai fatto album disonesti. Costello, all'inizio degli anni Ottanta, sente il bisogno insopprimibile di rivoluzionare il suo approccio alla musica. Lo farà grazie a un nuovo incontro e a un cambio di rotta finora impensato. Questa volta la sua strada punta dritta in direzione di Nashville, Tennessee. I magnifici destini. Un fulmine a ciel sereno ha sbattuto un punk inglese sulla strada maestra per Nashville, Tennessee, lo stato dove è nata gran parte della musica made in USA. Nelle circa 200 miglia che separano Memphis da Nashville, passando per quella Jackson cantata da Johnny Cash, si sono sviluppati il rock and roll e il country. Ed è proprio qui, a Nashville, nell'indiscussa patria del country, senz'altro il genere musicale più americano che ci sia, che Elvis Costello decide di imprimere una svolta alla sua carriera. Lo farà abbandonando le vie percorse fino a quel momento e incidendo un disco di cover sotto la supervisione di un nuovo produttore. I primi 5 dischi, realizzati a stretto contatto con Nick Lowe, sono stati importantissimi per la sua carriera, ma ora Elvis ha bisogno di cambiare aria. E questo vento di cambiamento ha un nome, quello di Birry Sherrill, storico produttore country, il cui destino si incrocia a quello di Costello per produrre un album straordinario dal titolo Almost Blue. Sì, a volte mi sono sentito troppo oscuro per il mio pubblico, ma ciò dipendeva da quel che il mio pubblico voleva da me. Quando cerco di seguire sinceramente i miei sentimenti, allora sono musicalmente in grado di fare un album come Almost Blue. Se cercassi solo di rimanere famoso il più a lungo possibile, beh, sbaglierei tutto quanto, no? La pubblicazione di Almost Blue divide gli animi. Alcuni trovano geniale il cambio di rotta di Costello, coraggioso nel suo approcciarsi a un genere tanto lontano dalle proprie radici. Altri invece storcono il naso. Un quattr'occhi inglese antipatico e borioso che suona il country, ma per favore. Lui aveva già intuito la possibile bagarre ed era corso ai ripari alla sua maniera. Il disco infatti esce con un'avvertenza ironica per gli utenti. Figuriamoci se Costello si lascia sfuggire un'occasione per punzecchiare il prossimo. Attenzione, questo disco contiene musica country e western e potrebbe causare fastidi agli ascoltatori mentalmente poco elastici. Costello se ne frega e si concede in ogni caso un periodo di ozio creativo in cui produce dischi per altri, non per sé. Forse nemmeno quella di Almost Blue, a ben pensarci, era la strada giusta. Forse è ora di perseguirne un'altra ancora. La mente musicale di Elvis Costello sembra nuovamente pronta a compiere un decisivo passo in avanti. Un cottage in Cornovaglia, immerso nel verde della campagna inglese. Il posto giusto per resettare tutto quanto, per ripartire da zero idealmente. Sono almeno 2 mesi che Elvis Costello lavora sodo in questo ritiro bucolico ai confini dell'Inghilterra. È assurdo che uno come lui, un autentico irrequieto, riesca a stare fermo per 2 mesi interi nello stesso posto, dedicandosi unicamente a un'attività. Eppure Costello, letteralmente affacciato sull'Oceano Atlantico, ha una profondità di sguardo sufficiente per rendersi conto di essere lì lì per compiere un'impresa grandiosa. E c'è una persona con lui, un magnifico destino pronto a ricordarglielo. Si chiama Geoff Emerick e può darsi che questo nome in effetti non vi dica niente, ma vi dirà certamente qualcosa della band con cui in passato Emerick ha lavorato più assiduamente, i Beatles. Emerick, tecnico del suono provetto, aggiunge il suo tocco speciale alle sessioni che danno vita a Imperial Bedroom, il nuovo disco di Costello, quello della consacrazione. In a sense she still smiles, very sweet. Charged with insults and flattery. Her body moves with madness. Do you have to be so cruel to be careless? And now you find you fit this identikit completely. You say you have no secrets, then leave discreetly. I might make California's poppy locked in Geneva's deepest vault, just like the canals and Mars and the Great Barrier Reef. I come to you beyond belief. Imperial Bedroom è il disco della definitiva maturità artistica di Elvis Costello, che abbandona il country e i suoi inizi punk per dimostrarsi un autore ambizioso, pronto davvero a conquistare il mondo e non più soltanto a stupirlo o irritarlo con le sue virate improvvise. L'ex ragazzo occhialuto e indisponente diventa un vero cantautore colto e raffinato, anche grazie al tocco magico dell'ingegnere del suono Geoff Emerick. Costello è così soddisfatto del proprio lavoro che decide di esibirsi a Londra insieme alla Royal Philharmonic Orchestra, regalando un respiro tutto nuovo alle canzoni di Imperial Bedroom. Un'operazione che, tuttavia, non viene compresa da tutti. Una volta ho cercato di spiegare ad un avvocato perché conduco la mia carriera in un certo modo. Era molto perplesso, perché quello che gli dicevo andava contro la logica delle compagnie discografiche. Quindi, se tu affermi di compiere scelte solo perché ti va e probabilmente questo ti porterà a perdere denaro, è come se parlassi arabo. Io faccio delle scelte che possono rendere la mia carriera interessante. Per esempio, suonare con la Royal Philharmonic è stato un disastro, certo, ma è stata un'esperienza molto interessante. Hai idea di quanti soldi ho perso? Ma ha funzionato perché la gente se ne ricorda ancora adesso. Forse l'esibizione con la Royal Philharmonic Orchestra non avrà avuto un incredibile successo di pubblico. Però per Costello si è trattato di un'esperienza importante. È vero, si è dato una calmata rispetto ai suoi inizi arrabbiati, ma resta pur sempre convinto di voler fare le cose totalmente di testa sua. Intanto la prestigiosa rivista Rolling Stone pubblica una sua intervista dal titolo «Elvis Costello si pente». È un ritratto tenero e solare di un ex giovanotto rabbioso che però non manca mai di mostrare il suo lato graffiante. Scrivere di musica è come ballare di architettura. È una cosa decisamente idiota, giusto? Costello inizia a rendersi conto che forse è nelle collaborazioni, dopo tutto, che risiede parte del segreto della sua fortuna. In Punch the Clock l'ospite d'eccezione è niente meno che un jazzista. Ecco un altro genere tutto da esplorare. Il grande Chet Baker regala un indimenticabile assolo di tromba a uno dei pezzi più memorabili del disco, la struggente Ship Building. It's just a rumor that was spread around town. Somebody said that someone got killed in for saying that people get killed in the result of this ship building. Costello poi, per ricambiare il favore, incoraggerà Baker ad inserire una sua ballata nel proprio repertorio, trasformando Almost Blue in uno dei pezzi più riconoscibili di entrambi. Costello ha davvero tanta voglia di collaborare con altri artisti e di omaggiare la tradizione musicale che lo ha preceduto, e sceglie di farlo anche da uno dei palcoscenici più prestigiosi degli anni Ottanta, quello del celeberrimo Live Aid organizzato da Bob Geldof. Wembley, Londra, 13 luglio 1985. Qui, e in contemporanea dall'altra parte dell'Oceano Atlantico, al John Fitzgerald Kennedy Stadium di Filadelfia, si celebra il gigantesco Live Aid di Bob Geldof, sul cui palco si riuniscono gli artisti più famosi del pianeta per supportare la causa dell'Etiopia. Costello, per l'occasione, si cimenta in una cover di All You Need Is Love, dei Beatles. Live Aid, Wembley and the world, welcome please, Elvis Costello! Voglio che mi aiutiate a cantare una vecchia canzone inglese molto famosa. There's nothing you can do that can be done. There's nothing you can sing that can be sung. Nothing you can say but you can learn how to play the game. It's easy. All you need is love. All you need is love. All you need is love. Beh, più omaggio ai Beatles di così. E non è finita. Qualche anno più tardi Costello inizia una fruttuosa collaborazione con Sir Paul McCartney in persona. Insieme scrivono un pezzo dal titolo Veronica, che confluirà nell'album Spike. McCartney, che notoriamente è uno di gusti difficili, non ha che parole lusinghiere per il suo conterraneo Costello. Ho pensato, perché no? Potrei lavorare con Elvis Costello. E poi quando l'ho incontrato mi sono reso conto che c'erano davvero delle somiglianze fra lui e John. Ma, per esempio, entrambi hanno gli occhiali. E le persone con gli occhiali hanno tutto un loro modo di rapportarsi con il mondo. No, non sto scherzando. Sono un po' introversi, aggressivi all'apparenza. A me questa cosa piace, intendiamoci. Insomma, ci siamo messi a lavorare e sono venute fuori qualcosa come 9 canzoni. Costello è addirittura il nuovo John Lennon agli occhi di Paul McCartney? Beh, sembrerebbe proprio così. C'è un enorme fraintendimento sulla natura del mio lavoro. Io non colgo divisioni fra i differenti tipi di musica che suono. Ritorno da ognuna di queste esperienze completamente nuovo, capisci? Queste divisioni sono nella testa dei critici che recensiscono i dischi e che se ne devono uscire fuori con dei giudizi assurdi, che non hanno un fondamento reale. Qualche volta, pensa, è persino divertente. I giornalisti hanno scritto ogni opinione su di me e il suo esatto contrario. Un po' di tutto e anche tutto il suo contrario. La carriera di Elvis Costello sembra proprio costellata, manco a dirlo, di cambi di rotta inaspettati, di contrasti, di screzi e ricomposizioni. Il tutto all'insegna della più viva e feconda eterogeneità. Ormai ne è passata di acqua sotto i ponti dai suoi inizi pancheggianti e arrabbiati. Elvis ha flirtato con svariati generi, con musicisti diversissimi tra loro e persino con altre forme d'arte, come ad esempio il cinema. Durante questo percorso, Costello si è accorto di amare le collaborazioni, specialmente se impreziosite da nomi altisonanti. Prima con Chet Baker, poi con Sir Paul McCartney. E non si vuole certo fermare qui. Ha sentito parlare di un certo professore italiano di lettere che sta romanticamente impiegando il proprio tempo in un'attività un po' fuori dal comune. Sembra un mattino qualsiasi quello in cui Elvis Costello prende in mano il suo solito quotidiano e inizia a sfogliarlo. Invece è tutto fuorché un mattino qualunque. E anche la notizia che cattura subito la sua attenzione non è certo una notizia qualunque. Un professore di Verona, la splendida città che fece da teatro alla tragedia degli amanti più celebri della storia, Romeo e Giulietta, ha ripreso in mano le lettere della bella Capuleti e vi sta rispondendo a una. Un gesto altisonante e simbolico, sostenuto da un'idea tanto struggente da non poter certo lasciare indifferente la sensibilità di un artista. Costello vuole mettere quelle lettere in musica. E per farlo gli serve una nuova collaborazione, un nuovo incontro che gli consenta di esplorare strade ancora non battute. È così che il suo destino si incrocia con quello di un magnifico quartetto d'archi, il Brodsky Quartet. Like quello che ho guadagnato con l'album The Juliet Letters, in confronto a quel che guadagna Madonna, è niente. Giusto un pugno di monetine. Costello ci scherza su, ma la sua temporanea trasformazione nel Frank Sinatra degli archi, al servizio di uno dei drammi amorosi più persistenti della tradizione, ha avuto un successo strepitoso. Una fusione perfetta tra pop e musica classica, così perfetta da ricordargli il suo amore mai sopito per i violini e in generale per le orchestrazioni melodiche. E se si parla di sontuose orchestrazioni melodiche, beh, il nome che viene subito in mente è uno, quello del grande Burt Bacharach. Those eyes I tried to capture, they are lost to me now forever. They smile for someone else. Parole e voce di Elvis Costello, arrangiamenti e orchestrazioni di Burt Bacharach. È così che si compone Painted from Memory, l'affascinante incontro tra due delle menti pop più sofisticate che ci siano in circolazione. Oh, per me è stato un onore collaborare con lui. È un artista che rarissime volte si è dimostrato disponibile in tal senso. Come compositore, Burt è molto più sperimentale rispetto a quello che un orecchio superficiale possa pensare. Non serve essere dei musicologi per capire che il nostro processo di scrittura e i nostri gusti si sono ritrovati a percorrere quel tratto di strada. Ma le loro strade non si uniscono solo in un disco, anche al cinema. Costello e Bacharach, infatti, appaiono insieme nel film Austin Powers, La spia che ci provava, suonando un loro pezzo in una Carnaby Street, celeberrima via londinese, ricreata in puro stile anni 60. What do you get when you fall in love? A guy with a pin to burst your bubble. That's what you get for all your trouble. I never fall in love again. La presenza di Costello sembra essere ormai garanzia di successo anche al botteghino. Sia Notting Hill che Austin Powers, entrambi benedetti dalla presenza di Costello nella colonna sonora, erano costati qualche decina di milioni di dollari e hanno finito con l'incassarne qualche centinaio. E dopo la parentesi sul grande schermo, Costello riprende la girandola variopinta dei dischi e delle collaborazioni, dalla pianista jazz Diana Krall, che diventa la sua terza moglie nel 2003, fino al grande Sting. Costello passa tranquillamente dalle opere della Deutsche Grammophon alle apparizioni sul piccolo schermo, da Sesame Street a 30 Rock, fino al Late Show with David Letterman. Questo sì che si chiama essere poliedrici. Ormai le radio sono monopolio di alcuni grossi gruppi che aggregano vari media, no? E spesso di musica non capiscono niente. Certo, ne capiscono in fatto di pubblicità, ma non è la stessa cosa. Non pigliamoci per il culo, per favore. Vuoi veramente sentire della musica? Vatti a comprare una chitarra. Poliedrico sì, ma pur sempre anche deliziosamente polemico.